Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata a tutti, benvenuti a Magazine 24, la rassegna stampa dei periodici settimanali, mensili, italiani e stranieri. Chiedo subito scusa per la voce che davvero questa mattina non è tra le migliori, cercherò di fare il possibile per non renderla proprio sgradevole all'ascolto, magari catturando la vostra attenzione invece con gli argomenti che andiamo ad analizzare. Allora, ci sono degli articoli che sono effettivamente divertenti e un esempio di questi articoli divertenti viene dal Newsweek di questa settimana, perché Jan Jaret si occupa di una cosa che ormai è diventata di moda in qualche senso sui periodici, cioè il famoso iPad. Per chi magari non lo sapesse ancora, si tratta dell'ultima diavoleria, per dir così, lanciata dalla Apple. A cosa serve? Bene non l'abbiamo ancora capito, anche perché in Italia non è ancora venduto, ma sostanzialmente è un po' più grosso di uno smartphone, di uno di questi telefoni di nuova generazione, un po' più piccolo di un computer, e serve per collegarsi alla rete, vedere la posta, vedere documenti, insomma fa un po' di cose di queste a cui ormai ci siamo abituati con la tecnologia. Perché l'articolo di Jaret è divertente? Perché occupandosi proprio dell'iPad su Newsweek lui si è portato un testimone assolutamente al di sopra di ogni sospetto. Dice: vediamo se questo affare, se questa diavoleria ha davvero la capacità di catturare la clientela così come sembra. E il collega Jaret si è portato la mamma, che viene anche descritta nell'articolo di Jaret. È una signora che ha, diciamo, tra i 50 e i 60 anni, si occupa di fisioterapia, fa la fisioterapista e, come lui stesso scrive, si preoccupa molto poco di gadget elettronici, di diavolerie elettroniche. Per lei i computer sono essenzialmente un mezzo per fare qualcosa. Usa quindi un piccolo MacBook di prima generazione sostanzialmente per scrivere, per mandare posta e ogni tanto consultare internet. Ecco, che effetto ha fatto alla mamma allora l'iPad? Infatti il titolo è proprio: riesce l'iPad a superare il test della mamma? E la risposta è sì, perché pur spiegando che la mamma non è particolarmente interessata alle cose elettroniche, appunto, non appena vede questo iPad in vendita nel negozio americano, in Europa deve ancora arrivare, in Italia deve ancora arrivare, la mamma di Jaret dice: ne voglio immediatamente uno, voglio averne uno. Questo nonostante tutte le critiche che sono fin qui arrivate proprio dagli utilizzatori più massicci di elettronica relativamente a questo nuovo oggetto, perché come scrive lo stesso Jaret, i critici lamentano che mancano funzioni di base, come ad esempio una fotocamera, manca la possibilità di fare dei video, manca il fatto che la lettura del video stesso, dello schermo, non è perfetta, non è ottimale all'aperto, o almeno non lo sarebbe, sono quelle le critiche che lui riporta, e che il suo sistema operativo non consente di essere molto versatile, ancora molto versatile, e costa, diciamo, $500 almeno, quindi nell'ordine dei 350-400 euro. E non c'è la possibilità di telefonare, insomma, una serie di critiche sono piovute addosso a questo oggetto, che però passa alla grandissima, verrebbe da dire, proprio il test della mamma, perché dice si è subito innamorata di questa lucentezza, di questa luminosità dell'iPad, della facilità di leggere lo schermo, dell'interfaccia che è assolutamente invitante, e di tutto il complessivo design, il look, e ha detto è assolutamente adorabile. Quindi, pur non essendo una consumatrice, o come dicono talvolta quelli che si occupano di tecnologia, una early adopter, cioè una di quelle persone che vuole assolutamente possedere l'ultima novità prima di tutti, ecco, la mamma di Jaret voleva invece, ha subito voluto l'iPad, cosa di cui probabilmente ignorava l'esistenza finché il figlio non l'ha portata nel negozio. E dice anche Jaret tutti i presunti difetti che i critici addossano a questo strumento non hanno assolutamente intaccato la certezza di mia madre, che ha valutato lo strumento per quello che rappresenta nella sua forma, nella sua funzione, e non si era fatta particolari aspettative sulla quantità di cose che poteva fare, che poteva avere da questo nuovo oggetto, e quindi è rimasta assolutamente estasiata appunto dall'oggetto stesso. La mia risposta, spiega, è stata assolutamente viscerale, semplicemente mi piace. Scrive in conclusione Jaret: mia madre probabilmente non si sarebbe precipitata a comprare un iPad il primo giorno in cui è stato presentato nei negozi. Tuttavia, anche se non avesse poi acquistato, come invece ha fatto l'iPad, io ho assistito a una scena che non avevo mai visto. Cioè, per la prima volta mia madre era dispiaciuta di andarsene da un negozio di computer dove mi aveva accompagnato. E dice: se questo non dice molto, non spiega abbastanza del potenziale dell'iPad, allora davvero non so che cosa possa significare. È la conclusione di Jaret. Tra l'altro, l'iPad, come dire, sta davvero invadendo i periodici, sta invadendo i settimanali. Cambiamo stato, veniamo in Europa, passiamo in Francia. Nouvel Observateur di questa settimana: abbiamo provato l'iPad anche loro, questa volta senza la mamma, però come più spiritosamente aveva fatto Jaret, e c'è una sorta di recensione di questo nuovo oggetto che viene anche descritto molto puntualmente da Colette Mangui. E Colette Mangui sostanzialmente è entusiasta, direi quasi quanto la mamma di Jaret a questo punto, del nuovo oggetto. Dice: è un lettore che consente di appunto accedere a internet, ma con una visibilità migliore, dà la possibilità di appunto gestire meglio i propri documenti, e in conclusione è qualcosa che cambierà sicuramente il nostro rapporto soprattutto con la stampa. Infatti una delle applicazioni da cui ci si aspetta di più è proprio la possibilità della sua interattività con quotidiani, periodici, settimanali, ad esempio quelli che leggiamo qui il sabato e la domenica mattina. Non è da escludere che in un futuro non lontano io possa ricorrere a uno strumento del genere per leggervi, per segnalarvi appunto gli articoli più interessanti da leggere. Quindi iPad non solo negli Stati Uniti con la prova della mamma, anche un test in Francia, una sorta di anteprima da parte di Colette Mengui su Nouvel Observateur di questa settimana. E visto che parliamo di tecnologia, una segnalazione per Donna Moderna, perché Donna Moderna, nella sua rubrica Lento Veloce, in cui cerca di contrapporre due pareri su uno stesso tema, uno stesso problema, si occupa appunto di un problema che è stato, che è diventato via via più importante proprio con la tecnologia, le cosiddette GAF telematiche. Dice: come rimediare alle GAF via SMS e via mail. Di cosa parliamo? Parliamo, immagino che molti di quelli che ci ascoltano lo sappiano bene, di quelle mail magari spedite alla persona sbagliata, di quel messaggio sul telefonino spedito alla persona sbagliata, al di là appunto di questioni che poi finiscono sui giornali perché portano magari alle separazioni o a litigi insanabili. Ci sono anche delle questioni più ordinarie, più gestibili grazie al cielo, ma che comunque creano un notevole imbarazzo. Il tema della settimana è come uscirne, e allora Maurizio Ferrari, che è uno degli abituali partner di Donna Moderna in questa rubrica, dice sostanzialmente di ignorare un po' l'effetto della cosa. Dice: la voce dal sen fuggita, richiamando il metastasio, richiamar non vale, e quindi i coniugi non perdoneranno, ma tanto la situazione era già compromessa. Forse la confusione degli SMS alla fine è la fonte di un provvidenziale chiarimento, i colleghi invece molte volte non ci faranno caso. Resta però una consolazione, è la conclusione di Ferraris nel invitare sostanzialmente a passare senza segnalare nulla una possibile gaffe. Negli ultimi tempi, dice Ferraris, si è diffusa un po' la psicosi delle intercettazioni. A ben vedere, alla luce dei danni che riusciamo a procurarci da soli, forse è davvero una preoccupazione frivola. Anche Roberto Re, che è contrapposto nella stessa pagina proprio su Donna Moderna di questa settimana e su questo stesso tema, invita sostanzialmente a minimizzare, ma puntando invece su un altro tipo di reazione, quello della sincerità assoluta. Dice: se la faccia ormai è perduta, non resta che scusarsi. Avete mandato un sms, una mail a un'amica, un amico, e questi erano indirizzati a un'altra persona, non c'è la possibilità di negare l'evidenza. Allora cerchiamo di salvare almeno la dignità. Come? Soprattutto puntando sulla sincerità, dicendo qualcosa tipo: mi spiace molto, tuttavia, insomma, non volevo magari essere così brutale, ma sono poi le cose che penso. Ecco, questo l'invito fatto da Roberto Re. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di gaffe telematiche, gaffe via sms, cioè via telefonino, via messaggini, mail inviate per sbaglio. Proprio di telefoni, di telefonate si occupa tra l'altro un piccolo contributo apparso sul Venerdì di Repubblica ieri. Hanno fatto una statistica per verificare quali siano i popoli che più volentieri telefonano a casa dall'Italia, ovviamente non italiani, e al telefono gli africani battono tutti. Questo ci segnala il Venerdì di Repubblica, tra l'altro spesso col telefono cellulare. Vediamo un po' meglio, l'indagine è stata fatta da MoneyGram e dice che gli stranieri più nostalgici sono gli africani subsahariani. La ricerca di questo osservatorio sugli immigrati e sui mezzi di comunicazione segnala che il 39% dei subsahariani telefona a casa più di 4 volte alla settimana, più di quelli che vengono dall'Ucraina, secondi con il 25%. Circa il 30% dei complessivamente 2.000 stranieri che sono stati intervistati per fare questa ricerca chiama una volta ogni 7 giorni, solo il 37% va nei phone center, sono appunto quei posti dove si può telefonare appunto come dalle cabine pubbliche. Per quanto riguarda il mezzo di comunicazione, leggo ancora dal Venerdì, è il cellulare quello più apprezzato per sentire casa, viene usato dal 55% del campione, quindi uno su due, anzi qualcosa di più. Soltanto il 17% usa Skype, il programma che consente di telefonare via internet, e questo nonostante 3 su 4 dichiarino di navigare in internet. Oltre il 60% degli immigrati, questo è un dato interessante non solo per le abitudini telefoniche, oltre il 60% degli immigrati, dicevo, non possiede un telefono fisso, anche se è leggermente in crescita il numero di chi si è poi convertito al telefono fisso. Infatti risulta un aumento del 5% rispetto a una precedente e analoga ricerca fatta nel 2007. Mensilmente uno straniero, una persona proveniente da paesi non comunitari, spende 40 euro la settimana per il cellulare, passando da un massimo di 45 euro appunto speso dagli africani a un minimo di 33 euro che viene speso dai sudamericani. Questa è la segnalazione che ho tratto dal Venerdì che avete trovato ieri con Repubblica. E proprio parlando di telefoni, allora una cosa dall'Espresso, sempre sulla questione dei telefoni, questa volta più squisitamente economica, consumerista. Alessandro Longo ci segnala questa disavventura che può essere capitata anche ad alcuni di noi: molti utenti si vedono passare da una società all'altra senza averlo chiesto. Ora l'autorità garante è corsa ai ripari. Di che si tratta? Spiega Longo sull'Espresso: volete cambiare operatore fisso per telefonare o navigare su internet, favorite il codice PIN segreto. E quanto i consumatori hanno cominciato a sentirsi chiedere dal 1 aprile dai call center, perché dal 1 maggio toccherà anche alle aziende, ed è la prima volta che una simile trovata burocratica si applica alle linee di tutti gli operatori, comprese quelle di Telecom. Finora è stato molto facile e diretto lasciare Telecom, una richiesta e via, si passa a un altro operatore senza fornire password. Ma forse è stato anche troppo facile, perché come spiegano l'autorità garante delle comunicazioni, la cosiddetta AGCOM in sigla, abbiamo deciso di imporre il PIN come estremo rimedio, visto che sono falliti gli altri modi per impedire attivazioni di linee non richieste. Che cosa succedeva? Tutta colpa, spiega Longo, di rivenditori troppo premurosi, telefonano, offrono di cambiare operatore, se anche si sentono porre un rifiuto alla richiesta di una pausa di riflessione, procedono lo stesso con il passaggio. Ma ma lo scherzetto può capitare anche se non si è stati nemmeno contattati dall'operatore, come risulta infatti dalle carte di un procedimento avviato appunto dall'antitrust del settembre 2009, che è stato richiesto da alcuni operatori contro altri operatori naturalmente, per centinaia di utenti. Era partito senza consenso il processo di passaggio appunto a un certo operatore telefonico. Certo, poi l'utente può rimediare, racconta sempre Longo, attivando la procedura di conciliazione con l'operatore che è subentrato, per così dire, a forza, e quindi essere rimborsato. C'è da dire, e lo nota appunto nel finale del suo articolo Alessandro Longo, che i consumatori non sono poi così favorevoli a questa difficoltà ulteriore nel cambiare l'operatore telefonico, perché ad esempio Altro Consumo ha fatto una battaglia contraria cercando di dissuadere Agicom dall'introdurre il PIN, il codice segreto, da una parte perché lo ritiene una barriera al cambio di operatore, quindi una barriera alla concorrenza, dall'altra perché sostiene che non risolve il problema principale. Quale sarebbe il problema principale su cui quindi Altro Consumo ci invita a vigilare? I servizi non richiesti che vengono attivati dagli operatori. Questo appunto il segnale. Qui non si tratta di cose naturalmente di tipo fraudolento come alcune di quelle che sono state segnalate in questo articolo, ma spesso dell'attivazione appunto di servizi supplementari che poi però si traducono di mese in mese in una spesa non indifferente. E allora, visto che parliamo di denaro, di risparmi o di come evitare sprechi, vi segnalo che è in edicola da pochi giorni, con il Sole 24 Ore, un volume che vi aiuta a scegliere i fondi comuni. I fondi comuni sono naturalmente uno strumento oramai diffusissimo per investire. Il Sole 24 Ore e CFS Rating hanno presentato così questo volume, si chiama I 300 migliori fondi, tutto quello che si deve sapere per investire i fondi. Lo trovate da mercoledì scorso. Corso è in edicola, è in vendita abbinata naturalmente con il quotidiano. È un volume che arriva quest'anno alla sua sesta edizione, viene studiato con l'idea di promuovere la conoscenza appunto dei fondi comuni, delle SICAV che sono offerte in Italia. È, ripeto, in vendita con il Sole 24 Ore, in abbinata con il quotidiano. E cambiamo completamente argomento per chiudere la nostra puntata di oggi. Parliamo di giovani, perché per chi ci sentisse, fosse più abituato a sentirci di settimana in settimana, ricorderà che sabato scorso abbiamo avuto il piacere di parlare con Don Shortino, il direttore di Famiglia Cristiana. Ci ha detto: faremo un grosso lavoro con la nuova Famiglia Cristiana per parlare della famiglia, dei problemi reali delle famiglie, dei giovani. E devo dire, la promessa, giudicando dal secondo numero che segue questa rivoluzione, questo cambiamento, la promessa è mantenuta. C'è una bella intervista, ed è quella di cui vi voglio parlare, una bella intervista a Giorgia Meloni, che è il ministro della gioventù, che non che ha uno sguardo molto molto, come dire, lucido, molto sincero sullo stato della gioventù, dei giovani nel paese. Il titolo già spiega molto: non è un paese per giovani, dice Giorgia Meloni, il ministro Meloni, Famiglia Cristiana. La parola giovane ormai le chiedono, sta diventando un sinonimo di precario, e lei risponde: purtroppo è vero, non solo nel lavoro ma anche negli affetti, nel rapporto con se stessi, nelle responsabilità. L'incertezza diventa l'unica certezza che hai. Quindi le dicono: si è bamboccioni per necessità, non per scelta. Lei dice: il problema è che oggi un giovane laureato con due master che parla tre lingue si vede offrire un contratto a tempo determinato da 15.000 euro lordi l'anno, cifra con la quale non puoi fare una vita dignitosa fuori dal nucleo familiare. La incalzano con un'ulteriore domanda: i giovani di oggi rischiano di stare peggio dei loro genitori? Chiedono. No, non è che rischiano, stanno proprio peggio, è la risposta del ministro. Questa è la prima generazione nella storia della Repubblica Italiana che eredita una realtà e una quotidianità peggiori rispetto a quelle ereditati dai propri padri. Questo è il giudizio, ripeto, del ministro Giorgia Meloni nell'intervista raccolta da Roberto Zichitella su Famiglia Cristiana di questa settimana, che ed è soltanto una delle questioni che vengono affrontate proprio relativamente all'aspetto dei giovani, della famiglia, su questo numero, il secondo, da che Famiglia Cristiana ha presentato una nuova veste grafica. Con questo il tempo a nostra disposizione si è concluso. Io ringrazio Filippo Aureggi questa mattina in regia, chiedo naturalmente ancora scusa a tutti quanti per la voce che davvero non era al meglio, grazie anche a Margherita Aina e a Vittoria Mussini che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo che potete riascoltare Magazine 24, così come tutti i programmi di Radio 24, sul nostro sito www.radio24.it. Appuntamento a domani mattina per una nuova puntata di Magazine 24.